Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ritornai a trovarla dopo 2 settimane e la trovai seduta sul letto, a leggere, come se non si fosse mai mossa. Era sempre molto magra e chiacchierammo con calma. Mi disse che era riuscita a diplomarsi frequentando una scuola serale e aveva intenzione di iscriversi all'università. Mentre parlava vidi nei suoi occhi una luce nuova, un riflesso vivo, guizzante, come quello del naufrago quando vede la terra. Ciao, mi chiamo Delia, ho 22 anni, vivo a Bari e studio lettere e filosofia. Sapete, e lo saprete anche se non avete mai messo piede su una barca, che il linguaggio nautico ha un sacco di declinazioni che vengono utilizzate nel linguaggio comune, che sono entrate nella vita di tutti quanti. Ce ne sono un paio che sono abbastanza eclatanti, come avere il sopravvento, ad esempio. In sostanza, visto che i grandi velieri all'epoca navigavano sempre, ovviamente, attraverso la forza del vento, si diceva e si dice ancora che qualsiasi oggetto divide il mondo in due parti, sopra e sottovento, cioè sopra è da dove arriva il vento fino a dove si trova l'oggetto, sottovento è da dove c'è l'oggetto in poi. Visto che queste grandi barche navigavano con queste vele che gli permettevano solo di scendere al vento, cioè di navigare con il vento alle spalle, nelle battaglie navali in sostanza chi stava sopra vento, cioè chi stava sopra rispetto all'altra barca, aveva un vantaggio. Da lì banalmente quando si parla di avere il sopravvento significa semplicemente stare sopra vento e quindi in una zona di vantaggio rispetto a qualcun altro. Uno però dei più utilizzati è che è anche dei più malinconici è andare alla deriva. Andare alla deriva significa semplicemente non poter più governare la propria barca, per mille motivi, perché è in avaria, perché ha problemi al timone, perché ha perso la velatura, e, insomma, per dei semplici problemi all'imbarcazione. Ecco, andare alla deriva significa semplicemente essere abbandonati alle correnti, al vento, ovviamente, e credo che prenda proprio il nome dal fatto che ogni barca ha una deriva, cioè la parte, è quella pinna che si trova sotto lo scafo e che è quella che, proprio essendo esposta alle correnti, la fa navigare anche se liberamente e senza governo. Ecco, oggi si parla di andare alla deriva perché il racconto che ci ha mandato Delia è una storia che riguarda due ragazze, lei e una ragazza di cui lei ci parla in questa storia, che di fatto scelgono, come molte ragazze di quell'età e non solo, di abbandonarsi e lasciarsi andare, lasciarsi trasportare dalla corrente e in questo caso magari anche dal vento. E quindi è una storia in parte dolorosa, è una storia però anche di rinascita e di riscoperta della vita. È una storia molto delicata e io ringrazio Delia per averla raccontata e per permetterci e per permettermi di raccontarla. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it se avete voglia di raccontarmi una vostra storia di deriva e di abbandono, se magari poi finisce meglio è meglio, giusto perché è venerdì. Se invece non finisce meglio va bene uguale, chi se ne frega. 349-238-6666. Ecco, proprio per non finire meglio, Stefania, il mio matrimonio è naufragato, il senso di solitudine su una scialuppa di salvataggio è data solo dall'amore per i miei figli, e pensare che pochi mesi fa con la mia famiglia veleggiavamo veramente tra le isole della Grecia. Mara invece mi scrive: un giorno all'improvviso mi ha travolto come uno tsunami, credevo non si potesse mai provare un terrore simile, credevo che un essere umano non fosse in grado di percepire la sensazione di scomparire. Io sono stata risucchiata in un abisso, il tunnel del panico. Oggi ne sono fuori, oggi la mia vita è completamente cambiata grazie al mio coraggio e ovviamente a una psicoterapia. Psicoterapeuti all'ascolto, pronti, che oggi c'è un sacco di materiale per voi. 349-238-6666. E poi ringrazio Marco che ha mandato un pezzo molto bello di Henri. Scusatemi. Henry ha fatto un risucchino che non avevo mai fatto, peraltro orribile, poco radiofonico. Henri Laborie, credo che si pronunci il nome, che ha scritto un trattato che si intitola Elogio della fuga e parla proprio della necessità di fuggire davanti alla tempesta, e si parla sempre di nautica e più o meno dice così: quando non può lottare contro il vento o il mare per seguire la sua rotta, il veliero ha due possibilità: l'andatura in cappa che lo fa andare alla deriva e la fuga davanti alla tempesta con il mare in poppa e un minimo di tela. La fuga è spesso, quando si è lontani dalla costa, il solo modo di salvare barca ed equipaggio. e in più permette di scoprire rive sconosciute che spuntano all'orizzonte, delle acque tornate calme. Rive sconosciute che saranno per sempre ignorate da quelli che hanno l'illusoria fortuna di poter seguire la rotta dei cargo e delle petroliere, la rotta senza imprevisti imposta dalle compagnie di navigazione. Forse conoscete quella barca che si chiama Desiderio. Quella... siamo veramente su di poesia quest'oggi, e forse perché venerdì. Ripeto, oggi si racconta qualcosa che ha a che fare con la deriva, con l'andare alla deriva e con quel fascino che ogni tanto si prova nel lasciarsi andare. 349-238-6666, questa però è una storia vera, questa è la storia di Delia. Sono passati 2 anni da allora, ma è indelebile in me il ricordo del centro per i disturbi del comportamento alimentare. Si trovava in una piccola città di provincia. Il ricordo del lungo corridoio bianco che ogni mercoledì mi portava al beffardo ritratto di Kafka di fronte alla bilancia e al volto contrito dei dottori. Non c'erano specchi in nessun luogo, solo lui, Kafka e qualche falso di Kandinsky. Non importa la mia identità, sono solo una di quelle ragazze in day hospital che a capochino aspettavano il proprio turno in quel corridoio spoglio. 2 anni fa circa me l'ha consigliato un'amica, o meglio un'amica di mia madre, dell'esistenza diciamo di questo centro che è qui a Bari comunque. In day hospital funziona così, senza ricoveri prolungati. Tante domande sono rimaste in sospeso, non è che uno sa perché, cioè ci sono tante cause, cioè, che non so nemmeno io. Per me, come per tutte, c'era una dieta, un diario, dei farmaci e dei detestati numeri da raggiungere. All'inizio non sopportavo i discorsi, né la sola vista di tutte quelle bambine perdute che riflettevano la mia stessa immagine, i miei stessi pensieri. Era come sprofondare in una nera palude d'ossa che portava il mio nome. Poi cominciai a conoscerne alcune, a detestarne altre, come in qualunque piccola società umana. Ognuna aveva una storia da raccontare, un baratro da colmare, ossessioni, paure, piccole strategie, tutte soldatesse in guerra. Ed è stato lì, tra tutte quelle voci, seduta sul pavimento, nel cantuccio più appartato, che ho visto lei, Stella. Leggeva, non ricordo più che cosa, di Chekhov. Aveva 17 anni, ma ne dimostrava 12. Stella mi colpì subito, non per l'estrema magrezza, per i libri o per ciò che diceva. Era il proposito fermo nei suoi occhi di ipnotizzarmi. Un candore pacato e un'ingenuità meschina che le faceva desiderare con la semplicità più assoluta di non volere crescere. Un giorno sua madre, mentre piangeva, mi si avvicinò e mi raccontò la storia di Stella. Ottimi voti a scuola, brillante, intelligente, mai un capriccio, mai un guaio, niente. Solo che ad un certo punto aveva deciso di fermarsi, di non andare più oltre. Non aveva mai avuto il ciclo, Stella. Mai un ragazzo, mai un reggiseno, mai un cenno di rimmelo o di rossetto. Stella voleva restare bambina, per questo non mangiava. Lei ovviamente ignorava ogni tipo di conseguenza fisica, non voleva guarire, voleva solo fermare il tempo. Tutto qui. E non importava che i capelli le cadessero, che le ossa si indebolissero, il battito rallentasse o la pelle si ingiallisse. A me sfuggiva il meccanismo di quella ferrea volontà, io mi ero stancata del limite imposto dalla malattia. Stella no, lei abbracciava quel limite, si aggrappava alla malattia come fosse l'unica certezza al mondo. Naturalmente venne ricoverata e alimentata forzatamente. Durante il suo primo ricovero non andai a trovarla. Avevo paura di quell'altro corridoio, quello in cui non ero mai stata. Avevo paura di sapere cosa succede quando gli altri decidono della tua sopravvivenza, del tuo arbitrio. Stella poi uscì, ma le spostarono il giorno della bilancia. Invece del mercoledì avrebbe visto Kafka e Kandinsky di martedì. Non la vidi per qualche mese e poi venne a sapere che era stata ricoverata un'altra volta, ma non per l'anoressia. Era stato diagnosticato un disturbo bipolare. E allora decisi di andare a trovarla e vincere la paura dell'altro corridoio. Appena mi vide, Stella iniziò a dare in escandescenza, era elettrica. Aveva messo su qualche chilo. Sembrava che stesse bene, ma aveva lo sguardo perso. Perso nei sali di litio che le davano ogni giorno. Ritornai a trovarla dopo 2 settimane e la trovai seduta sul letto a leggere come se non si fosse mai mossa. Questa volta mi sorrise dolcemente, come se mi stesse aspettando esattamente quel giorno, a quell'ora. E parlammo con calma. Mi disse che era riuscita a diplomarsi, frequentando una scuola serale, e voleva iscriversi all'università. Mentre parlava, vidi nei suoi occhi una luce nuova, un riflesso vivo, guizzante, come quella del naufrago quando vede la terra. Una persona, una ragazza più piccola di me, di un'ingenuità allucinante. Quando parlavo con lei, che poi all'inizio non era molto abbordabile, così come non lo ero io, poi è stata col tempo, che comunque lei si teneva molto in disparte rispetto alle altre. E poi piano piano abbiamo iniziato a parlare così, meravigliosa come persona, buona. Mi colpiva il fatto che diceva che lei non voleva crescere, non voleva le responsabilità. Stella non vedeva l'ora di uscire e di riprendersi tutto quello che aveva perduto. Aveva ancora difficoltà a mangiare, il suo organismo era provato, ma la mente era lucida, come una conchiglia. Quel giorno la sentii dire ciò che nemmeno io, quasi alla fine della mia lotta contro i mostri, riuscivo a dire a me stessa. Disse questa cosa. Disse, una volta che l'orologio si è rotto, puoi anche riparare gli ingranaggi difettosi, ma ci sarà sempre qualcosa di macchinoso, di poco naturale, nel modo in cui segnerà l'ora. Mi regalò un braccialetto arancione prima che me ne andassi, non l'ho più tolto. Lo rigiro adesso tra le dita e penso che la volontà è una vox media. Siamo noi a piegarla verso il giorno o verso la notte, in un senso o nell'altro. Samson came to my bed, told me that my hair was red, told me I was beautiful, came into my bed. Oh, I cut his hair myself one night, a pair of scissors in the yellow light, and he told me that I'd done all right. L'ultima volta che ho sentito parlare di vox media, studiavo il latino ed ero al liceo. E appena ho letto questo racconto sono tornato subito a cercarmi il significato. E ho capito che in realtà non me lo ricordavo per niente, perché la vox media è una parola che sta a metà, non ha un'accezione negativa o positiva in valore assoluto. Ecco perché non capivo cosa intendesse il racconto che vi ho letto quando dice che la volontà è una vox media. L'ho dovuto rileggere per capire che la chiave stava tutta nel dettaglio dello sguardo di Stella, la ragazzina di 17 anni che voleva rimanere bambina. E quando Delia dice che il suo sguardo aveva una luce nuova, aveva un riflesso vivo e guizzante, come quello del naufrago quando vede la terra. La storia di Stella e di Delia parla proprio di quello, parla di un naufragio. Racconta di come per mille motivi ci si possa ritrovare tutti, ognuno di noi, un giorno, senza una nave, senza un equipaggio e soprattutto senza una rotta, su una scialuppa di salvataggio, in attesa di vedere la terra. L'unica macroscopica differenza è che di solito il naufrago non sceglie di esserlo, ci si ritrova in quella situazione e da quella situazione in qualche modo cerca di uscire. Quella di Stella invece è stata proprio una scelta. Lei aveva deciso di rimanere bambina e per farlo era disposta a non mangiare più. Cioè è come se un giorno qualcuno decidesse di naufragare di proposito, di rimanere su una zattera alla deriva per giorni e giorni, sperando solo di sopravvivere. E la cosa incredibile è che questa cosa è successa. È successa 50 anni fa, nel 1952. Il protagonista si chiama Alain Bombard. La storia di Bombard sembra davvero la storia di tutte quelle persone che a un certo punto della loro vita si trovano a perdere tutti i riferimenti e a galleggiare in preda ai venti e ai mari che imperversano sopra la loro testa e sotto di loro. Solo che lui ha deciso di sua spontanea volontà di naufragare. E lo ha deciso proprio per dimostrare quello che dice la storia di oggi, cioè che la volontà è una vox media, che siamo noi a piegarla verso il giorno o verso la notte, in un senso o nell'altro. Bombard era un medico francese. Credo di aver parlato di lui, forse l'anno scorso, così, un po' distrattamente. Era un medico francese che nei primi anni della sua carriera lavorò in un ospedale che si trovava sulle coste nord della Francia. E lì gli capitò di prestare soccorso ad alcuni naufraghi che arrivavano proprio su quelle coste lì. E lui si convinse che, di fronte a un naufragio, la differenza tra chi sopravvive e chi no non dipende tanto dalla forza fisica, dalla zattera, dalla disponibilità di provviste. Dipende solo dalla forza di volontà. E dopo aver studiato diversi casi di naufraghi sopravvissuti, lui teorizzò che chi moriva in realtà si lasciava morire e chi voleva sopravvivere resisteva al punto da riuscire a toccare terra. Ovviamente era una teoria talmente nuova e sembrava così assurda che inizialmente non fu creduta da nessuno. E quindi lui, Alain Bombard, nel 1952, all'età di 28 anni, compie un'impresa che è al limite tra la ricerca scientifica e la follia. Fa naufragio di proposito. A bordo di una specie di gommone lungo 4 metri e mezzo e largo 2, senza motore, senza provviste, senza riserve d'acqua, senza niente, si lascia naufragare nell'Oceano Atlantico, dall'Europa all'America. Lo attraversa quell'oceano spinto da venti e da correnti in 65 giorni di naufragio volontario. Mangia plancton raccolto con un pezzo di stoffa, beve succo di pesce, prova al mondo e a se stesso che la volontà è più forte della natura e delle tempeste. E forse a volte la volontà è più forte anche di noi. Allora, qualcuno che non si firma scrive: no, la deriva è la corrente, è la pinna sotto lo scafo che prende il nome dalla corrente. Grazie. E poi, ciao, io con il mio windsurf sono andato alla deriva e ho naufragato perché il vento era troppo forte, quindi ho perso il controllo. Che esperienza, Roberto, che esperienza. Non lo so, dicela che esperienza è stata. T'avranno ripreso, immagino, se sei qui a scrivere. Usciamo da qua e torniamo nella storia e andiamo direttamente a sentire Delia. Pronto, Delia? Pronto. Ciao, come stai? Bene. Ci sei? Sei un po' emozionata, Delia? Sì, un po'. Benissimo, siamo in due allora. Via, aspetta un attimo che ci facciamo un bel respiro e ci riprendiamo tutte e due. Senti, partiamo da... Quanti anni hai adesso, Delia? Non ho capito. Quanti anni hai? Ah, 22. 22. E sei... Si può dire, sei di Bari, giusto? Sì, sì. Cioè, si può dire, nel senso, non che Bari sia un problema dire che uno è di Bari, che magari non avevi voglia di dirlo tu, però l'avevi già detto. Senti, cosa fai? Sì, studi, lavori? Sì, studio lettere. E a che anno sei? A 22 anni e che anno sei? Al terzo? Sono al terzo, sì. E quindi quando ti manca? Diciamo, un po'. Nel senso che quanti esami, si possono dire gli esami che mancano? Diciamo, quindi, saranno 10? Sì. Più di 10? Più di 10 no. Ah, scusami, 6 hai detto? Sì. Ah, vabbè, allora stai con un passo di là, no? No, non voglio dire nulla. Ok, non diciamo nulla. Senti, invece come stai? Stai bene adesso, Delia? Sì, adesso sì. Sei tranquilla? Pronto, Delia, sei tranquilla, sì. Pronto? Sì, sì. Mi senti. Niente, probabilmente abbiamo collegamenti lontani con Bari. Senti, dimmi come sta Stella, se la frequenti ancora, se l'hai rivista. Non l'ho rivista più, soltanto che ho saputo, diciamo, attraverso conoscenze comuni che anche lì sta mesi. Che anche lei sta meglio, scusami, è che ti sento un po' tipo dentro un forno microonde. Quindi facciamo così, che mi consola il fatto che tu stia meglio e che stia facendo delle cose. Tipo, ce l'hai uno straccio di fidanzato adesso, Delia? No. Come no? No. Ma perché non c'hai voglia o perché... Non lo so. Senti, Delia, ti sento un po'... Non è capitato. Non è capitato, va bene. Io però ti voglio davvero ringraziare per il tuo racconto, che insomma è stato un tuffo in un mondo che di solito non si frequenta, a meno che non ci si capiti dentro o non si abbiano degli amici o dei parenti che ci capitano dentro. Quindi ti ringrazio ancora e ti faccio un abbraccio, Delia. Grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Salutiamo Delia perché è uno strazio, mi sto quasi per emozionare più di quanto sia dovuto. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Delia, che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, è in compagnia di un'amica, credo, o di una sorella forse. È all'aperto e il clima è proprio vacanziero, ci sono palme, ci sono piante verdissime, e poi fa caldo. Lei ha addosso un abito corto e leggero, sembra stare bene, dei capelli ricci. È una bella ragazza, Delia, con degli occhiali da sole. E ringrazio Margherita che mi ha scritto, così per capire, così lo dico anche a voi se andate a vederla. Delia è quella vicina al girasole. 349 238 6666. Qualcuno che non si firma mi ha scritto, però me l'ha scritto sul profilo Facebook del programma: ho lasciato il lavoro via fax, come ha fatto la persona di cui hai letto ieri in diretta, senza avere un altro lavoro. Ora sono sollevata, più felice e molto più rilassata, e però ogni tanto mi sembra di avere dei momenti di distacco e mi chiedo: Dio mio, che cosa ho fatto? Vedo il baratro alla deriva davanti a me, vedo i giorni, i mesi di solitudine a cercare lavoro, a sentirmi frustrata e insicura, a non riuscire a dimostrare quello che valgo, a non avere motivo di alzarmi dal letto. Sono di indole piuttosto cupa e temo di sprofondare in queste sensazioni, mi è già successo d'altra parte. Però cerco di tenermi a galla con piccole cose, senza pensare troppo in avanti, con una routine giornaliera che non mi faccia affondare nel vuoto e tenendomi in contatto con gli altri. Ale, c'è qualcuno che se l'è presa perché ho detto ti faccio un abbraccio invece che ti do un abbraccio, o si dice ti abbraccio semplicemente, e mi chiede di usare meglio l'italiano. E va bene. Sai l'unica cosa, te lo dico proprio apertamente, sai qual è l'unica cosa che mi dà fastidio del tuo messaggio? E concludi dicendo roba da matti. Ecco, dire roba da matti è proprio una cosa che mi fa venire la pelle d'oca. È un po' come dire ah guarda, veramente non se ne può più. È un po' come dire non se ne può più. Sento dire la frase non se ne può più da quando c'ho 6 anni. Se non se ne può più, allora facciamo qualcosa. Se è una roba da matti, vieni qui e mi prendi e mi porti e mi fai internare. 349-238-6666. C'è una cosa più importante, molto più interessante da raccontare. Oggi la puntata va così. Si parla di naufragi e quindi rimaniamo esattamente lì. Non facciamo finta di andare da un'altra parte. La storia che sto per raccontarvi, anzi la lettera che sto per raccontarvi, viene da una storia molto dolorosa che risale al 1978. Nel 1978 un personaggio abbastanza famoso che si chiamava Ambrogio Focar, che adesso non c'è più per via di un incidente che gli è successo in un'altra occasione, sta navigando insieme a un marinaio, che è un marinaio molto esperto, che è anche un giornalista, è di Livorno e si chiama Mauro Mancini. Mauro Mancini è una persona che probabilmente chi ha messo piede in barca ha visto il suo nome, lo ha visto su questi libri che si chiamano Portolani, dove in pratica ci sono descritti tutti i porti italiani, sono divisi per aree, e Mauro Mancini aveva di fatto erano degli appunti scritti a mano su come sono fatti i porti italiani, proprio su dove trovi il gas, dove trovi l'acqua, la luce, dove trovi la benzina, com'è il fondo del porto, dove si trovano gli ancoraggi, tutto in sostanza fatto a mano, è proprio come se lui l'avesse disegnato sui suoi blocchi di appunti. Mauro Mancini nel 78 naufraga insieme ad Ambrogio Fogar. Non so se vi ricordate quella storia o se l'avete sentita o l'avete letta. Sono sul Surprise, adesso non mi ricordo. Sì, in inglese Surprise, ma forse era sorpresa. Vabbè, tant'è. Sono sulla nave di Ambrogio Fogar, che viene colpita da un'orca o una balena, e quindi fanno naufragio, in sostanza. Si buttano sulla zattera di salvataggio e si trovano a oltre 200 miglia da Rio della Plata, dalla costa argentina. Ci rimangono 74 giorni su quella zattera, e di fatto quando vengono raccolti da una nave cargo che passa di lì sono vivi tutti e due, solo che Ambrogio Focar ce la farà e Mauro Mancini dopo 2 giorni invece no. Mentre si trova su quella zattera, Mauro Mancini scrive una lettera alla moglie per salutarla, che è una lettera struggente e che racconta un pochettino che cosa si prova quando veramente si è su una zattera alla deriva. Tesoro mio, ho vissuto questi lunghissimi giorni di agonia con il tuo nome sempre ripetuto e pensato. Scusa del dolore che ti do, ma non è dipeso da un errore umano. Stavamo anzi tornando indietro perché la barca aveva sofferto qualche piccola avaria. Eravamo a 4 giorni di vela da Rio della Plata, quando un branco di orche o di balene ci ha attaccato, affondando il Surprise in 4 minuti. Ci siamo gettati sul battello di gomma e sulla zattera autogonfiabile con pochissima roba da mangiare. Era la mattina di giovedì 19 gennaio e adesso sono 3 settimane che stiamo vagando per l'oceano senza che nessuno abbia potuto o saputo cercarci. Oggi siamo a circa 270 miglia a sud di Rio della Plata. Ambrogio Foga era un uomo coraggioso, equilibrato, buono. Ci siamo fatti compagnia con grande fermezza d'animo e questo è già qualcosa. A te, Roby, mio unico grande bene, voglio dire una cosa. Vivi la vita in ogni istante, perché non vi è regalo più grande. Io lo capisco appieno soltanto ora che la sto perdendo, ma vivila nel dialogo, facendo posto anche agli altri. Non mi ricordare troppo. Sono stati 14 anni belli ed equilibrati, i nostri. Dal punto di vista finanziario sto abbastanza tranquillo. Con la liquidazione pagherai la casa, poi venderai il quoziente e poi avrai la pensione. Ho scritto a Sensini che ti aiuterà. Rivolgiti a lui con fiducia, perché avrai qualche mese duro davanti. Addio, mia impareggiabile Roberta, che aveva molte più ragioni di quante io non gliene dessi. chiedo perdono ai tuoi genitori e a tutti gli altri della famiglia. Questa lettera è stata pubblicata dal Corriere della Sera nel 2009, credo, e forse anche dalla Nazione più tardi, che era il giornale per cui Mauro Mancini lavorava. 349-238-6666, niente, non, chiaramente non c'era come dire che il termine roba da matti mi dava fastidio. Per far arrivare decine di messaggi in cui mi dicono che qualsiasi cosa è una roba da matti, compreso... Vabbè, 349-238-6666. Allora, ieri ho dato delle indicazioni forse non proprio corrette riguardo al podcast, quindi le ripeto. Lo trovate il podcast se volete scaricare il programma e ascoltarvelo quando cavolo volete, sul sito della radio, che è Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, oppure molto più semplicemente attraverso la sezione podcast della radio. C'è un'altra alternativa, molti chiedono perché Tiziano Bonini non carica più i podcast sul profilo Facebook del programma, perché non si può più fare, credo, giusto? Perché non lo facciamo più? Perché è molto più comodo abbonarsi ad iTunes, giusto Tiziano? Perché li giriamo direttamente al sito e dal sito ve li scaricate, altrimenti vi abbonate gratuitamente sul software che gestisce la musica della Apple, che si chiama iTunes. Andate nella sezione podcast e lì vi abbonate ogni 5 giorni, giusto? Sì, ogni 5 giorni ci sono le ultime 5 puntate, ce la posso fare a finire questa puntata. Ci sono le ultime 5 puntate degli ultimi 5 giorni gratuitamente, ogni giorno, semplicemente. Allora, ho detto ogni giorno, credo 5 volte negli ultimi 30 secondi. È venerdì un pochettino per tutti. Io ringrazio tutti quelli che hanno fatto sì che anche questa puntata andasse in onda, nonostante me oggi, che sono Stefano D'Andrea, Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Ina. Vi ricordo che potete continuare a mandare i vostri racconti a Voi Siete Qui @radio24.it, oppure farlo anche attraverso il profilo Facebook del programma, che è sempre quello, è Matteo Caccia, Io Sono Qui. La storia di oggi era la storia di Delia e parlava di naufragi. Quella di lunedì invece è la storia di Gabriele e parla dell'essere padre. Mattia è il mio primo figlio. Sono passati circa 5 anni da quando era andato via da casa, dalla Brianza, destinazione Barcellona. Era la sua voglia di vivere, la sua gioventù e la gioia che parlavano per lui. Con coraggio, trattenendo la sorpresa e la rabbia, gli dissi sorridente: «Vai, stai tranquillo, ci sentiremo spesso, sarà una bella esperienza».